24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qui alle 7:20 minuti con il nostro Peter Bescapè in regia, ci seguirà fino alle 9. E allora, cari ascoltatori, torniamo a parlare di manovra. Beh sì, in questi giorni non si parla d'altro, la manovra. E attenzione, perché come viene fuori dai giornali c'è la promessa di una lotta dura e pura nei confronti degli evasori fiscali. E tra l'altro è rispuntata ieri quest'idea, che già ricordate nel 2008 fu una causa di polemiche incredibili con la pubblicazione dei redditi online di tutti gli italiani. Eccola qui, rendere pubblici i redditi degli italiani per contrastare l'evasione. Una idea che ogni tanto rispunta, pare rispunti anche ora. Che ne pensate? Può essere questo lo strumento per combattere l'evasione fiscale? Fare tutto in modo trasparente, dire tutto di tutti, e così magari qualcuno è spinto anche a che cosa? Alla delazione, alla segnalazione giusta e civile. Che ne pensate? Ne parleremo alle 8:30. Ci sarà anche Oscar Giannino, grande ritorno qui da noi, lo abbiamo anticipato, e ci dirà la sua contro, immagino, lo Stato ladro. Che ne so. Intanto andiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali in edicola. In primo piano. Beh, i titoli sono tutti dedicati proprio a questo, la manovra e soprattutto la lotta all'evasione fiscale. Per il Sole 24 Ore, ecco il piano contro i grandi evasori, più redditometro e carcere, ipotesi concordato. Per il Corriere della Sera, evasori, c'è il rischio carcere. Il Giornale, tasse evasori alle strette. Ma ovviamente molti giornali si concentrano anche sul, come dire, il flop, la retromarcia sulla questione pensioni. Per Repubblica, manovra caos, tutto da rifare. Per La Stampa, retromarcia sulle pensioni. Il Messaggero, avanti senza le pensioni. Berlusconi, infortunio chiuso. Per Libero, pensionata la manovra. Poi ci sono alcuni giornali che, come dire, picchiano duro nei titoli. Il Fatto Quotidiano, buffonata illegale. Per L'Unità, il governo delle comiche. Il Manifesto invece, crash test, emette una foto di Silvio Berlusconi in prima pagina. Per Il Riformista, la farsa ed è la manovra. Il Secolo XIX, manovra caos, blitz sul fisco, mentre per il Quotidiano Nazionale spunta il concordato fiscale. Questo è il titolo di prima pagina. Allora, come vedete, il tema, quello centrale, è questo. Salta la questione delle pensioni, dopo il vertice di Arco nel giro di 24 ore. Oggi i giornali ricostruiscono anche quella che viene definita l'ira del Premier, del Cavaliere, e vedremo anche nei confronti di chi, questo più avanti, di chi è ritenuto responsabile di quella proposta sulle pensioni. Intanto però da cosa voglio partire? Beh, ce l'hanno fatta al Senato ad aumentare quegli scandalosi prezzi del ristorante, ricordate, no? I primi a 1,50 euro, ma anche dei piatti di pesce a 3 euro e rotti e non di più. Ora il Senato alza i prezzi del menù. Lo leggo da Libero a pagina 11, ma anche sulla Stampa, a pagina 4, ristorante del Senato, salta il prezzo politico, gli antipasti passano da 5 a 15 euro, i primi da una media di 6 a 24 euro, i secondi salgono da 10 a 24 euro, cioè questi sono i prezzi triplicati, quindi un antipasto costerà almeno 5 euro, un primo almeno 6 euro, i secondi almeno 10 euro, non quei risibili prezzi da 1,50 euro, 2,30 euro che c'erano fino a qualche tempo fa. Tra l'altro La Stampa, in maniera ironica, dice: i prezzi del ristorante sono stati comunicati, ironia della sorte, all'ora di pranzo, ieri, da uno dei questori del Senato, Angelo Maria Cicolani, che tra l'altro qui a questi microfoni aveva sostenuto una tesi surreale, ricordate, prima dell'estate, dicendo che quei prezzi, 1,50 euro, erano prezzi che coprivano ampiamente i costi della materia prima, i costi del servizio e il costo del lavoro, una tesi sinceramente incredibile e che però fu portata avanti. La verità è che, scrive invece Andrea Morigi su Libero, anche con i nuovi prezzi, quelli triplicati, rimane comunque un contributo a carico dello Stato, cioè del contribuente, cioè noi. Infatti si ammette che la spesa complessiva a carico dell'amministrazione sarà ridotta di circa il 70%, vale a dire che quella percentuale residua al 30% peserà comunque sul bilancio di Palazzo Madama. E comunque, insomma, il questore Cicolani dice era una decisione dovuta che abbiamo preso insieme, sarà immediatamente operativa. Dunque, al Senato si pagherà il triplo rispetto a prima per mangiare. E poi la seconda segnalazione che vi voglio dare dai giornali, la riprendono tutti i quotidiani, in realtà viene lanciata da Panorama, dal settimanale Panorama, pagina 51, c'è un corvo in Vaticano. E non si tratta di un uccello, ma quando si parla di corvo, c'è una ampia esperienza in Italia, vuol dire c'è qualcuno dall'interno del Vaticano che sta mandando delle lettere strane, delle lettere minatorie, delle lettere piene di sospetti. Un corvo velenoso in Vaticano, si legge a pagina 51 di Panorama, Ignazio Ingrao, minacce di morte al segretario di Stato Vaticano. Di ritorno dalle ferie il cardinale Tarcisio Bertone ha trovato questa lettera anonima con un inquietante incipit: grandi funerali a corte. E tra l'altro Bertone ha capito al volo il senso minaccioso di quella prima frase, una citazione di San Giovanni Bosco, che nel dicembre 1854, con il Parlamento italiano che discute l'abolizione di numerosi ordini religiosi e l'esproprio dei loro beni, Don Bosco fa un sogno premonitore. Un bambino gli annuncia grandi funerali a corte. Per questo Don Bosco informa il re Vittorio Emanuele II del sogno, lo invita a sospendere la discussione in Parlamento. Il re non presta ascolto al santo. Le leggi eversive vengono approvate, ma in breve Vittorio Emanuele II perde prematuramente la madre, la moglie, il fratello e il figlio più piccolo. Ecco, insomma, allora grandi funerali a corte, ma in questa lettera, tra l'altro, minatoria, non si ferma qui, scrive Panorama, l'anonimo mostra di essere assai ben informato sulle vicende interne della curia, critica pesantemente l'operato del segretario di Stato Bertone, lo accusa di non saper decidere, di scegliere i suoi collaboratori solo sulla base della simpatia o dell'antipatia personale, senza valutare le reali competenze. Allora questa lettera di questo corvo in Vaticano viene ripresa anche da tutti i giornali. Per Libero, minacce in Vaticano e caccia al corvo, mentre Repubblica, minacce a Bertone in Vaticano e caccia al corvo. Ebbene sì, c'è un corvo in Vaticano. In primo piano. Alle 7:32 minuti, allora vediamo di capire la nuova versione della manovra, come è, come sarà, anche se ancora tutto è da definire, non si può dire forse in alto mare, però ci sono tante cose che sono state modificate. Beh, intanto quello che si evince dai giornali è che ora ci sarà una stretta promessa sull'evasione fiscale. Come detto, il Sole 24 Ore, che dedica diverse pagine, sempre di speciale, in tutti i dettagli della manovra, titola: ecco il piano contro i grandi evasori, il pacchetto anti-evasione da 2 miliardi, scrive nell'articolo Dino Pesole a pagina 3, un'altra giornata alla faticosa ricerca delle coperture. Alla fine la via d'uscita per buona parte sarà assicurata da un nuovo pacchetto di misure sul fronte dell'evasione e dell'elusione fiscale. Il pacchetto vale oltre 2 miliardi, è stato consegnato ieri in tarda serata a Palazzo Chigi dai tecnici dell'economia. Serve ovviamente ora il timbro politico, prima di tutto del presidente Berlusconi. E allora vediamo che cosa però da anticipazioni prevede questa stretta sull'evasione fiscale. Compare il rafforzamento del redditometro con il probabile contestuale potenziamento delle indagini effettuate attraverso l'anagrafe sui conti correnti bancari, in modo da accertare in modo più tempestivo l'effettivo tenore di vita di soggetti ritenuti a rischio evasione. E poi ancora, non compare l'ipotesi, ma in sede politica se ne parlava ieri, di un possibile concordato. In sostanza, il maggior imponibile accertato potrebbe essere sanato attraverso il pagamento di un'imposta forfettaria. Allora, lo vogliamo chiamare concordato o, come scrivono molti giornali, un condono? Ecco perché Dino Pesole scrive: se si configurasse come un condono, ancorché mascherato, sarebbe assimilata a un'entrata una tantum, e su questo punto la Commissione europea ha espresso a più riprese riserve e obiezioni. Ovviamente c'è l'incognita del giudizio dei mercati. Altra novità in arrivo, non meno rilevante per il suo obiettivo di deterrenza, riguarda l'annosa questione della mancata emissione degli scontrini fiscali. Qualora dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza si accerterà che l'emissione degli scontrini è palesemente inferiore al giro di affari dell'esercizio, si prospetta anche la sospensione della licenza per l'esercente infedele con pubblicazione del nome sui giornali. Attenzione, anche questa, insomma, tante novità allora di questa stretta antievasione. C'è il concordato, per esempio? Quello che si pensa di recuperare dall'evasione fiscale, dalla lotta all'evasione fiscale, sono 2 miliardi. La ricerca è questa, la ricerca di coperture. Il Corriere della Sera pone in prima pagina rischio carcere, evasori, c'è il rischio carcere. Si scrive a pagina 3 del concordato fiscale, che effettivamente spunta, e si passa alle manette per chi evade, e tra l'altro anche la proposta di pensare a un patto con la Svizzera per tassare i capitali sui conti cifrati. E poi ancora pagina 7 del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzi e Antonio Criscione si concentrano proprio sul redditometro che punta i maxi evasori. Si abbasseranno le soglie per la sanzione penale, però certo c'è questo punto di domanda enorme sul nuovo concordato che potrebbe spuntare. Come detto, la Stampa per esempio è molto esplicita: per fare cassa si rafforza l'idea del maxi condono. Rosaria Talarico a pagina 7, tramontata l'ipotesi di modificare i criteri per andare in pensione, per far cassa, trovare i fondi, si fa strada l'idea del nuovo condono, che sia fiscale o edilizio, poco importa, basta far cassa. Le reazioni contrastanti, l'entusiasmo è quello dei due promotori, i deputati del Popolo della Libertà, Amedeo La Boccetta e Antonio Mazzocchi. Dall'altra parte invece l'indignazione dell'opposizione e delle associazioni ambientaliste. In realtà al Tesoro starebbero studiando un meccanismo più sofisticato, eccolo qui, una sorta di redditometro concordato. Ma intanto il dibattito impazza, e tra l'altro il PDLino, La Boccetta, dice: ho ricevuto in solo 8 giorni 12.000 mail da tutta Italia, da parte di semplici cittadini che hanno inteso manifestare apprezzamento per l'iniziativa del condono fiscale. Evidentemente la proposta avanzata riguarda un tema pesantemente avvertito dagli italiani. E beh, aggiungo io con un pizzico di ironia, chissà perché molti italiani salutano con soddisfazione l'idea che rispunta di tanto in tanto del condono fiscale. Allora, è il tema del nostro sondaggio, se volete, perché quello che è emerso ieri sui giornali è lotta all'evasione fiscale con anche uno strumento, una possibilità, quella di recuperare i soldi. Come? Grazie alle segnalazioni dei cittadini. E come facilitare queste segnalazioni? Beh, è molto semplice, basterebbe rendere pubblico, trasparenti, pubblicati e consultabili a tutti i redditi di tutti gli italiani. Così se tu scopri che il vicino di casa dichiara 35.000 euro, ma lo vedi parcheggiare sotto, che ne so, o girare in Maserati, magari puoi farti due conti e puoi segnalare alla Guardia di Finanza. Ovviamente su tutti i giornali ci sono i dibattiti, in prima pagina di Libero per esempio ci sono Maria Giovanna Maglie e Gianluigi Paragone che si confrontano. Maria Giovanna Maglie dice: è una follia, l'evasione non si combatte con la delazione, mentre Gianluigi Paragone risponde: è giusto, gli onesti non hanno paura della trasparenza. Mentre il Corriere della Sera fa con Alessandro Trocino a pagina 10 una sorta di escursus storico, da Visentini a Formica, la trasparenza ostacoli sui redditi. Ci fu Formica, Rino Formica, nell'82, quando decise di svegliare dal torpore estivo gli italiani. dicendo: perché si possa perdonare occorre prima espiare, e dunque inviò alle redazioni i libroni pieni di cifre e nomi con le dichiarazioni dei redditi degli italiani che finirono sui giornali. Allora gli italiani scoprirono dell'esistenza di un signore che guadagnava 13,3 miliardi nel 1989, Leonardo Del Vecchio, il patron di Luxottica. Dietro di lui compariva Silvio Berlusconi con 10,5 miliardi. Allora prevalse la curiosità, ma già allora qualcuno parlò di inquisizione. Per la verità, racconta Trocino, la storia della pubblicità e dati fiscali comincia nel 1977 con Bruno Visentini, allora ministro delle finanze, che stabilisce che chiunque può andare in un comune e chiedere la dichiarazione dei redditi di un'altra persona. La verità è che la procedura è un po' macchinosa, ma il libero accesso è garantito. E poi ci fu nel 2008 la vicenda a Vincenzo Visco, ministro delle finanze di allora, quando l'Agenzia delle Entrate pubblicò, per la verità per qualche giorno o per poco tempo, perché fu bloccato tutto dall'allora e attuale garante della privacy, la pubblicazione di tutto le dichiarazioni degli italiani, mossa avventata. Allora il direttore dell'Agenzia delle Entrate Massimo Romano si assunse tutte le responsabilità e si dimise. Ma insomma, è una storia che ciclicamente si ripete. Anche Antonio Criscione, anche sul Sole 24 Ore, per i comuni accesso stretto ai database, ci sarà, qualcuno dice, la possibilità di pubblicare i redditi online, ma che verrà lasciata ai comuni con la possibilità di decidere. Cioè i comuni potranno decidere se pubblicare in maniera più semplice rispetto all'attuale possibilità di andare a chiedere, di consultare, compilare formulari, fare una procedura abbastanza burocratica e lunga. La possibilità invece verrà data ora ai comuni di pubblicare online i redditi dei propri cittadini. Ci sarà il comune che lo farà, ci saranno quelli che non lo faranno, ci saranno quelli accusati di essere dalla parte della giustizia e del bene, ci saranno quelli accusati di essere dalla parte dei delatori e degli spioni. Ne parleremo alle 8:30 e oggi su Avvenire in prima pagina, proprio su questo tema, il direttore Marco Tarquinio fa un editoriale dal titolo "Se non ora, quando?". Lotta all'evasione, ci risiamo. Quando non si sa dove trovare i soldi in Italia, si tira fuori la carta del recupero di un po' di evasione fiscale. Un lodevole modo di dire che, per la verità, grazie a un lavoro mai apprezzato abbastanza, è diventato anche un modo di fare. Senza però che questo abbia risolto davvero il problema di reperire risorse certe, quello di porre fine allo scandalo di un'evasione semplicemente impressionante. Se l'evasione esiste, scrive Tarquinio, e persiste in misura così massiccia, è perché è facile e possibile. Se è facile e possibile è conveniente, se è conveniente è utile e buona, e se è utile e buona perché rinunciarci? L'evasore fiscale gode insomma di noncurante, se non ammiccante indifferenza, tanto quanto di complicità e di consenso. Questo in Italia. Allora, cari ascoltatori, questo è quello che si profila oggi, cioè la stretta all'evasione. Ma certo i giornali si concentrano su quello che è successo ieri o quello che è successo nelle ultime 48 ore. Ma insomma, questa mini stretta sulle pensioni, comparsa in un vertice durato 7 ore ad Arcore e sbugiardata nel giro di 24 ore, che è successo? Beh, per il giornale è chiaro. Un pasticcio firmato Sacconi. Questo è il titolo a pagina 3 del giornale, che accusa direttamente il ministro del welfare. Pensioni, il pasticcio firmato Sacconi. Anche Tremonti e Calderoli avevano dato garanzie a Berlusconi. E c'è anche il ruolo ambiguo di CISL e Will. Ne parla e ne scrive ad Alberto Signore. Un pasticcio non solo da dilettanti, ma anche da irresponsabili. Questo avrebbe detto un Berlusconi pieno di ira, anche se Signore scrive l'ira non è un sentimento che appartiene a Berlusconi, ma certo l'umore ieri del Cavaliere era nero. Perché? Perché ce l'aveva con chi? Nel mirino, in ordine, niente affatto casuale, Maurizio Sacconi, Roberto Calderoli, Giulio Tremonti. Il primo, Sacconi, per avere proposto durante il vertice di lunedì ad Arcore l'intervento sulla previdenza che ha fatto scoppiare il pandemonio. Il secondo per averlo accettato, Calderoli, e il terzo per aver detto, cioè Tremonti, che la cosa era fattibile. Nessuno di loro ha sollevato obiezioni, Tra l'altro Sacconi in questa ricostruzione avrebbe detto: ho sentito sia Raffaele Bonanni della CISL sia Angeletti della UIL e abbiamo il loro placet, li ho sentiti e sono d'accordo. Questa è la rassicurazione. Il problema è che però le rappresentanze locali di CISL e UIL nella notte avrebbero messo all'angolo i rispettivi segretari generali, da qui il repentino cambio di rotta. Berlusconi, a cui viene attribuita questa frase sul Corriere, è tutto sotto controllo, non è vero che siamo allo sbando, racconta Paola pagina 5 Paola Di Caro. Non è vero che siamo nel caos, che i conti non tornano, mi preoccupa l'atteggiamento dell'opposizione, questo affidato a Berlusconi, ma in realtà anche qui la ricostruzione è questa. Sarebbe stato Tremonti invece per il Corriere a mettere sul tavolo questa proposta, ma su suggerimento del collega del welfare Sacconi, che l'aveva preparata con l'avallo dei tecnici del Tesoro che l'avevano anche esaminata. Calderoli avrebbe aperto all'ipotesi, anche perché si diceva riguarderà 60.000 lavoratori, poi si è scoperto che invece poteva riguardarne 600.000, e quindi nel giro di 24 ore è tutto tramontato. Berlusconi, che oggi andrà a Parigi per parlare di Libia in ambito europeo, scrive anche Ugo Magri sulla Stampa in prima pagina, è arrabbiato. È stata colpa di Sacconi, anche qui viene messo questo virgolettato, ammette l'errore Berlusconi, ricostruzione simile a quella degli altri giornali per quel che riguarda il vertice di Arcore. E intanto Tremonti, che succede a Tremonti? Qui ieri non prendeva il telefonino. Beh, Repubblica fa sapere con Claudio Tito in prima pagina e poi continua a pagina 4 che in realtà questa potrebbe essere una delle tante fughe strategiche in qualche modo di Tremonti, no? L'atteggiamento di Tremonti, secondo Claudio Tito su Repubblica, è questo: Tremonti assediato nel bunker, non mi assumo la responsabilità di errori non miei. Questa è la virgolettato che viene attribuito a Tremonti, che fino a ieri era nella baita di Lorenzago di Cadore, che è stata trasformata per un giorno in un vero e proprio bunker per respingere gli assalti del fuoco amico, e vale a dire quello della sua maggioranza. I rapporti, scrive Claudio Tito, tra lui e Berlusconi sono sempre rapporti pessimi, ma insomma questo nei retroscena lo scrivono i giornali da tempo. Berlusconi non si fiderebbe più di quello che un tempo definiva un genio, usa pretesti per qualsiasi cosa, anche oggi ha un solo obiettivo: far morire Sansone con tutti i filistei. Tra i due neanche ieri una parola, d'altronde non prendeva il telefonino, così pare, di Tremonti. In realtà c'era un canale di comunicazione aperto con i sottosegretari, tra Tremonti e i sottosegretari Casero e Giorgetti, soli in grado di trasmettere la posizione del ministro, che sarebbe questa: non possono chiedermi di stravolgere la manovra in qualcosa che non sarebbe più mio. Hanno cercato di fare i furbi? Ora che cosa vogliono? Questo sarebbe l'atteggiamento di Tremonti. Ma oggi c'è il Consiglio dei Ministri e, secondo il giornale, Tremonti non si arrende, potrebbe nel Consiglio dei Ministri di oggi riproporre che cosa? Ma ovviamente la tassa, il contributo di solidarietà che 48 ore fa è stato tolto. Insomma, si naviga un po' a vista. In primo piano. Intanto, a proposito di sprechi o presunti sprechi, beh, interessante leggere il Fatto Quotidiano oggi a pagina 3. Che cosa propone? Auto blu per 1 milione, Jaguar, Maserati, BMW per la direzione carceri. Interessante, Silvia Donghia racconta sotto il titolo Fuori serie penitenziaria la storia delle auto blu, che sono in dotazione del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, guidato dal magistrato antiterrorismo Franco Ionta. Jaguar e Maserati tra le auto blu della direzione carceri. 8 funzionari hanno in tutto vetture che valgono 1 milione di euro. Sono 17 auto, alcune delle quali blindate. D'altronde alcune di queste persone hanno ha diritto alla scorta, valgono oltre 1 milione di euro, sono a disposizione di 8 alti dirigenti. Qualcuna come la Maserati, che utilizza il capo del Dipartimento Ionta, è incomodato d'uso alla presidenza del Consiglio, molte altre sono direttamente proprietà del Dipartimento, in ogni caso pagano i cittadini. Sono poi vetture che consumano dagli 8 litri per 100 km della BMW ai 22 litri per 100 km dalla Maserati. Allora eccoli qua snocciolati, eh? Franco Jonta ha a disposizione 7 auto, oltre alla Maserati blindata una BMW 550, 3 BMW 530, 2 Land Rover Discovery 5000, mezzi ovviamente che non escono tutti insieme, ma rimangono parcheggiati e pronti all'uso. Il vice capo vicario Emilio Di Somma può contare su un Audi A6 di 4002 di cilindrata e su una BMW 530. Il direttore dell'ufficio ispettivo, il magistrato Francesco Cascini, viaggia su una Volkswagen Phaeton 5000 del valore di 75.000 euro. Insomma, e così via. Vengono snocciolati 8 funzionari, vetture, 17 vetture, che valgono un totale di 1 milione di euro e quanto scrive e a quanto risulta al Fatto Quotidiano, nessuno di loro rinuncia all'auto blu nonostante la crisi e i sacrifici che vengono imposti alla categoria. E vabbè... Trovate ancora della questione giudiziaria, politico-giudiziaria, sempre i casi che più colpiscono sono Scajola, la casa, la vicenda Penati, c'è anche la vicenda Marco Milanese, l'ex collaboratore del ministro Tremonti. Oggi i giornali scrivono il sospetto dei magistrati è che Milanese, tra l'altro per il quale il 20 settembre bisognerà decidere alla Camera sulla richiesta d'arresto, svuotò le cassette di sicurezza, fece secondo i magistrati diversi accessi al caveau delle banche almeno 3 o 4 volte al mese, secondo i pubblici ministeri in quelle occasioni potrebbe avere movimentato soldi in contanti, quindi occultando documenti sugli accertamenti attività avviati sulla sua attività. E poi c'è la vicenda Penati, oggi il Corriere della Sera intervista Antonio Rugari, 44 anni, ingegnere, ex presidente del Consorzio Trasporti Pubblici. Chi è Antonio Rugari? È colui che 2 giorni dopo la vittoria a Milano del sindaco Pisapia mandò un messaggio, un SMS a Filippo Penati, considerato ambiguo dai magistrati. Il messaggio è questo: considerata come è andata Milano, credo si possa tentare di risolvere la questione di Piero. Piero è Piero di Caterina, il grande accusatore di Penati. A Milano ha vinto il centrosinistra, secondo i magistrati. Insomma, è una possibile dimostrazione che in qualche modo Penati aveva anche un controllo su che cosa? Sulla giunta di Milano? Beh, sta di fatto che oggi questo Antonio Rugari dice: è vero, mandai quell'SMS, volevo chiedere un aiuto a Penati per risolvere la controversia sul sistema del trasporto pubblico, il SITAM. E così sono andato dall'attuale assessore Maran ai trasporti. Abbiamo parlato per quasi 2 ore e non per mezz'ora, come dice lui nell'intervista al Corriere. Io ho fatto pressioni, lui le ha respinte, la storia è diversa. L'assessore mi ha offerto una posizione nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la Mobilità e una consulenza sui progetti per la sosta regolamentata, ma io ho rifiutato. Con l'assessore Maran che replica: è tutto falso, per me parlano i fatti, non abbiamo firmato alcun contratto e non è mai stato trasmesso il curriculum dell'ingegner Rugari alla direzione risorse umane. Insomma, l'uomo dell'SMS ora accusa: mi hanno offerto dalla giunta di Milano un incarico, ce n'è per creare nuove polemiche. Voglio andare ad alcune segnalazioni di altro tipo di cronaca che viene un po' mangiata dai giornali, dalle tante pagine dedicate alla manovra, ma ho trovato qualcosa di interessante. Intanto sul Messaggero a pagina 15 una notizia che arriva da New York, Anna Guaita ne parla: niente regali e poco affetto, e allora denunciano la madre cattiva. Verrebbe da dire cose che succedono solo negli Stati Uniti, dove infatti ci sono ora le polemiche per alcune cause giudicate frivole e che poi arrivano comunque davanti ai giudici. Sono 2 ex adolescenti, ora maggiorenni, che hanno portato in causa davanti a un tribunale la propria madre perché i giovani affermano che nella loro infanzia sono stati trattati freddamente e senza affetto dalla madre, soprattutto dopo la separazione dei 2 genitori. I 2 chiedevano $50.000 di danni e sono stati rappresentati dal padre. Ah, ecco, sono stati rappresentati. Allora era una vendetta dell'ex marito, dai, diciamola la verità. Volevano equiparare questa mancanza d'affetto a un vero e proprio abuso di tipo emotivo e non fisico. ma siccome c'è un giudice a New York, come a Berlino direbbe qualcuno, la causa l'hanno persa. E dunque questi 50.000 euro non li hanno ottenuti come chiedevano, perché la madre non gli aveva dedicato abbastanza affetto e non gli aveva dato abbastanza regali. Una storia che mi ha molto colpito invece, come ricordate, insomma, il 2012 alle porte, dunque la fine del mondo si avvicina, no? Ormai i giorni per tutti noi sono contati. Può sembrare una barzelletta, può sembrare una profezia dei Maya, può sembrare semplicemente tutto questo un film. Sta di fatto che il secolo XIX racconta in prima pagina una storia dei italiani, fra gli italiani che aspettano l'apocalisse. Stefano Trincia racconta di una comunità di italiani, sono circa 80, che sono in questo momento in Messico, in una zona, per la verità, in un villaggio chiamato Xul, sulle colline dentro la foresta, in un punto vicino a Quic, un antico insediamento Maya, dove una donna messicana che ha vissuto per anni a Roma e ha iniziato a fare proseliti in una vera e propria setta, poi ha riunito tutti, sono una 80 di persone, tutti italiani, e sono in una serie di bunker totalmente inaccessibili e vivono lì. La donna che li ha riuniti, questa santona, è Carolina Zalce, che era sposata appunto con un funzionario messicano, ha vissuto a Roma, ha iniziato a fare vicino a Bracciano, al lago di Bracciano, i primi proseliti di questa setta, poi li ha spostati tutti in Messico. Ora si trovano a 180 km dalla città di Mérida, per l'appunto, attendendo che cosa? La fine del mondo, è ovvio, no? Il posto è inaccessibile, ma è stato fatto un documentario che verrà mostrato, credo, nei prossimi giorni. È stato fatto da Jesus Garces Lambert, che è riuscito a andare ad avvicinarsi, non certo a entrare in questi bunker, però ha intervistato per esempio l'architetto del progetto, ci sono anche delle foto sul secolo XIX. L'architetto di questo progetto ha detto che nessun estraneo è autorizzato a entrare. Gli italiani non pensano che ci sarà la fine del mondo. Ah, beh, questo ci rassicura, cioè sono lì ma non è che pensano che ci sia la fine del mondo, ma ci saranno molti disastri naturali, temperature elevate fino a 45-50 gradi centigradi. Voi che pensavate di non sopportare l'afa a 35 di quest'estate, inondazioni, incendi, e per questo che stanno creando lì il loro spazio vitale in questi bunker dispersi nella foresta del Messico. Auguri. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:21 minuti. Voglio salutare l'onorevole Simonetta Rubinato del Partito Democratico. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Allora, tra l'altro dobbiamo anche dire anche sindaco di Roncada in provincia di Treviso. Sì, senta, vogliamo parlare un po' di questa lotta all'evasione fiscale, perché sui giornali oggi se ne sentono davvero di ogni tipo di proposta. Intanto lei di recente aveva proposto, sapete che si può fare? Pubblichiamo sul sito magari dell'Agenzia delle Entrate l'elenco dei contribuenti per i quali si è accertata un'evasione di considerevole entità. Allora, onorevole, che cos'è? Delazione o un giusto principio di equità? Un giusto principio di trasparenza, io direi. Vista la situazione del paese, il grande evasore fiscale, cioè quello per il quale l'entità dell'imponibile evaso, l'entità dell'imposta non pagata, supera una certa soglia e quindi commette reato, a mio avviso è una persona che sta sottraendo risorse al futuro dei giovani del nostro paese, ad esempio, e quindi è corretto che, come dire, esattamente come per un qualsiasi reato una persona, come dire, viene in qualche modo anche conosciuta al pubblico, così lo sia anche in materia fiscale, anche quando, devo dire, la procedura di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, questa è una questione proprio di trasparenza, a mio parere va ovviamente calibrata con una certa prudenza, chiuda il procedimento con un concordato, con un'adesione, un accordo con l'Agenzia delle Entrate. A proposito di concordato, sto sempre parlando appunto di importi che superano la soglia del reato, della fattispecie che costituisce reato, almeno per quelli. A proposito di concordato, ho sentito che spunta l'ipotesi di un nuovo concordato, cioè misure più dure, soprattutto il redditometro, ma anche un concordato. Qualcuno dice già è un nuovo condono. Qui c'è il vizio purtroppo in questo paese. Lo Stato in questo è in qualche modo anche un po' complice, devo dire la verità. Io ho sempre ritenuto che bisognerebbe mettere, quando ero al Senato nel 2007 ho presentato un disegno di legge costituzionale per mettere in Costituzione i principi dello Statuto del Contribuente, e sto lavorando a una proposta anche in questo momento che per esempio preveda la tutela dei principi di non retroattività dell'imposta, i principi di tutela del principio dell'affidamento del contribuente, tutta una serie di, come dire, correzioni nel rapporto che lo Stato fino ad oggi non si è comportato molto bene col contribuente, e nello stesso tempo anche l'impossibilità di procedere con una maggioranza semplice in Parlamento all'approvazione di condoni e di sanatorie. Credo che il condono e la sanatoria fiscale assomigli molto a un'amnistia, e quindi come per l'amnistia debba servire una maggioranza qualificata di 2/3. Questo per riequilibrare i paletti di un minimo di rapporto corretto tra Stato e contribuente. Quindi lo Stato fino a qui qualche volta, cito il ministro Tremonti che scrisse un libro a suo tempo, in qualche modo qualche volta è stato anche un po' criminogeno, nel senso che ha creato anche i presupposti perché qualche cittadino si sentisse in qualche modo vessato e quindi si difendesse da solo. Però detto questo, e quindi lo Stato per primo deve cambiare il suo raggio d'azione comportandosi anche in modo molto leale col contribuente. Detto questo, chi poi non si comporta in modo leale, direi con lo Stato sì, ma soprattutto con il resto della comunità deve nazionale pagare. E con le future generazioni, a quel punto deve pagare. A questo proposito, un'ipotesi, un'altra che spunta, è quella della pubblicazione online di tutti i redditi. Noi tra poco ne parleremo anche con Oscar Giannino. La trasparenza che coinvolgerebbe i sindaci, cioè i sindaci, e quindi le faccio una domanda da sindaco, i sindaci hanno la possibilità di pubblicare tutto quello che succede già dei loro cittadini. Intanto ci aiuta a chiarire, perché mi pare che la legge già preveda che se io vengo dal suo comune possa fare una richiesta specifica per ottenere il reddito di un suo cittadino. È così? O è una cosa burocraticamente difficile? Sì, questo può essere fatto, e può essere fatto in un arco di tempo, mi pare nel limite di un anno, della pubblicazione appunto delle dichiarazioni. Quindi si può fare, quindi già sono pubblici volendo, però uno dovrebbe andare a chiedere nome per nome, no? Sì, le dirò che stiamo toccando un argomento molto delicato in questo caso, nel senso che tra l'altro in questa situazione, la situazione difficile che si sta creando nel paese, ci sono chiare responsabilità ovviamente di chi governa il paese e lo ha governato per 8 degli ultimi 10 anni. In questa situazione la pubblicazione dei redditi, visto anche quello che leggo sui giornali, continua telefonata, la Guardia di Finanza, forte aumento così di cittadini che denunciano altri cittadini, è un momento un po' delicato questo perché potrebbe innestarsi anche un meccanismo un po' pericoloso, tipo di delazione, di invidia, sì, di gelosia, esattamente, o anche solo di curiosità morbosa o il vicino che guarda il vicino, insomma una cosa molto lei lo farebbe. Poi magari Roncade, quanti abitanti fa Roncade? 14.000, quindi vi conoscete un po' tutti, è un po' più pericoloso. Il principio di fondo che, come dire, lo trovo quanto mai singolare, ed infatti viene da questo governo, no? Allora, il ministro dell'economia in questo paese dispone di un braccio non da poco con la Guardia di Finanza operativo, e dispone dell'Agenzia delle Entrate che è dislocata su tutto il territorio. Dispone di, credo, consistenti anche risorse, quindi umane e strumentali, ha tutte le banche dati possibili, sappiamo cosa può essere oggi internet se utilizzato bene, incrociate le banche dati. Cioè dice, se la vedono loro, insomma. Scarica sui sindaci. Ma stiamo perdendo i fondamentali in questo paese. Cioè dice, se la sbrighino da soli a fare la caccia. No, io dico questo, si parla tanto di federalismo. È un federalismo solo parlato per il momento e ben poco praticato, anzi siamo molto arretrati sul tema dell'autonomia responsabile in questo paese con i patti di stabilità approvati da questa maggioranza. Però io come sindaco, sulle imposte che mi competono, sull'ICI per capirci, come tanti altri bravi amministratori, abbiamo fatto la nostra battaglia all'evasione fiscale, perché sulle nostre imposte abbiamo fatto quello che era dovuto, dove dovevamo far pagare tutti per far pagare tutti di meno. Questa è la regola che dovrebbe valere anche a livello generale, visto che in questo paese chi paga le tasse ne paga troppo. Quindi per quanto ci riguarda le nostre responsabilità ce le prendiamo, ma non sulla finanza derivata, su quella che ci elargisce generosamente lo Stato, sulle imposte dello Stato, è lo Stato che deve fare la sua parte, che deve fare il suo dovere. Allora, l'ultima domanda, senatrice è onorevole e anche sindaco, perché molti dicono la lotta alla casta, visto che la casta non fa queste lotte, perché lei tiene, semmai, sebbene immagino con uno stipendio, due poltrone, non è il caso di tenerne solo una? Ne tengo due perché sono una persona a cui è stato chiesto in un comune di maggioranza di centrodestra di presentare un progetto alla popolazione. Vabbè, questo sì, è stata eletta. Votato. No, questo i miei no, cittadini no certo, non ha fatto nulla di illegale, certo, però molti no, dicono. No, non solo, posso dirle una battuta su questo, nessuno lo dice, io sono al secondo mandato, quindi non ho un conflitto di interessi nel dirlo, per me la vicenda è praticamente chiusa, con l'orgoglio di aver fatto il mio lavoro di sindaco e di parlamentare, in questo momento sospendo la mia attività professionale di studio, quindi senza aumentare i redditi, cioè senza fare studio, il terzo lavoro, quindi no, esatto, non fa... no, ma su questo attenzione, anche una norma che c'è in questa manovra, sì, che pensa di, come dire, così fare moralizzazione dicendo che il parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva, ma in questo modo noi possiamo per esempio tenere in Parlamento gli assessori nominati esterni, mm-hmm, penso per esempio al collega Tabacci a Milano, sì, che è anche un parlamentare, ma espelliamo dal Parlamento i sindaci dei comuni per esempio sotto i 20.000 abitanti come il mio, che sono perfettamente compatibili, quando non c'è ancora un Senato delle autonomie, cioè in Parlamento avremo solo gli eletti delle liste bloccate, quindi a mio parere finché c'è questa legge elettorale questa norma chiude su un Parlamento che non è più Parlamento ma è un'assemblea di cortigiani e di cortigiani. Io intanto la ringrazio e la saluto, grazie a voi, buona mattinata. Rubinato, a lei, onorevole del Partito Democratico, sindaco di Roncada in provincia di Treviso, e rimaniamo come dire a continuare a sviluppare questo tema. Allora, il tema del nostro sondaggio è molto semplice, sta uscendo quest'idea di affidare ai sindaci la possibilità di pubblicare online o non si sa come, insomma di rendere pubblici i redditi di tutti voi cari cittadini italiani, come fecero all'epoca di Visco per qualche periodo, quando abbiamo sentito poi ci fu un putiferio incredibile. Che ne pensate? Che ne pensa Oscar Giannino? Ce lo dirà tra poco qui in studio dopo la pubblicità del meteo. 24 mattino. Alle 8:33 minuti. Allora, che ne pensate dell'idea di pubblicare i redditi, renderli pubblici, trasparenti, accessibili a tutti, i redditi di tutti noi italiani? Vi ricordate nel 2008 la vicenda legata a Vincenzo Visco, che fece pubblicare l'Agenzia delle Entrate di allora con il suo capo Romano, che poi si dimise per quella vicenda, fece pubblicare per qualche tempo, per qualche ora, tutto online, fu fermato dal garante della privacy. Ci fu un putiferio incredibile. Ora rispunta questa idea. L'idea è: diamo la possibilità e la scelta ai sindaci dei comuni di pubblicare, se vogliono, tutti i redditi degli italiani. Cos'è? Giustizia o incitamento alla delazione? Nel nostro sondaggio. Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Intanto saluto, è la prima volta che ci ritroviamo in onda dopo la pausa estiva, il grande Oscar Giannino, eccoci qua Oscar. Vabbè, come sempre pronto a immolarmi ai tuoi ordini. A immolarsi, saluto l'ex magistrato in pensione Bruno Tinti, buongiorno. Buongiorno a lei. Possiamo leggerla anche spesso sul Fatto Quotidiano, e saluto anche il sindaco di Varallo Sesia della Lega, Gianluca Buonanno. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. Tanto l'abbiamo chiamata questa mattina al volo e la ringrazio perché ho letto che lei sul Corriere ha detto: se mi danno l'ok io non solo pubblico tutto in un mese ma metto i manifesti in tutto il paese con l'elenco di tutte le dichiarazioni. C'è qua Oscar Giannino che appena l'ha sentita dire questa cosa, o meglio l'ha letta sul Corriere, è sobbalzato sulla sedia. Sindaco, lei cos'è? Faceva parte della Stasi della Germania Est qualche anno fa? No, meno male che è crollato tutto. No, però penso questo da sindaco. Io sono stufo di vedere gente che dichiara dei redditi da fame, che ha una bella macchina, che si fa le vacanze 3 volte l'anno, che si fa la bella vita, e alla fine fa il furbo e chi paga sono sempre i soliti. E come sindaco ho dei problemi. Ad esempio, se uno mi dichiara 10.000 euro e ne guadagna molti di più, l'IRPEF che io prendo come amministratore

questo, il problema dell'evasione fiscale c'è, il problema si sta discutendo se sia questo lo strumento. Perché ti ho visto molto inalberato e perché ti abbiamo chiamato? Su questo so che sei molto molto arrabbiato, su questo strumento. Sono stufo di questa gara al giustizialismo. Il sindaco ha detto la verità, vuole soldi, è affamato. Il sindaco è affamato come tutti gli amministratori pubblici. Allora, in termini quantitativi, il più grande ladro del nostro paese è lo Stato, che passa da 815 miliardi di spesa pubblica a 890 nei prossimi tre anni, è incessantemente e famelicamente proteso al reperimento di nuove risorse. I politici pro tempore, perché lo Stato sono i politici pro tempore, no? Nel mio paese filosofico non esiste l'interesse generale. Io sono uno che segue Public Choice, Buchanan. Da Weber in poi sappiamo, se non raccontiamo balle a chi ci ascolta, in nome dell'interesse collettivo, gli italiani sono ubriacati di religione statalista. La realtà è che lo Stato è fatto degli interessi pro tempore di chi lo amministra. Chi lo amministra pro tempore vuole più risorse pubbliche, non meno da amministrare, in termini di consenso. Questo è il motivo per cui siamo sul ciglio del baratro. Non è vero che non c'è una lira, l'attivo pubblico è maggiore del debito pubblico. Prima di mettermi le mani nel portafoglio, come tutti gli statalisti pretendono che si debba fare, lo Stato ha un portafoglio suo da mettere a reddito e da cedere, quindi faccia privatizzazioni per la parte patrimoniale, diminuzione di spesa corrente per l'equilibrio. In più, siccome vedo che è molto popolare tra suadisan liberali e legalisti di tutti i tipi la delazione fiscale, io credo invece che il rapporto privato personale e di anonimato fiscale, che significa l'anonimato fiscale, lo Stato giustamente deve avere però tutti gli strumenti per conoscere la mia posizione contabile patrimoniale, che di qua lo Stato si metta a eccitare per il fine di massimizzare il suo consenso per la spesa corrente. Questo è il motivo per cui quando sento argomenti, lo dico con rispetto personale, come quello del dottor Tinti, ma anche come quello del sindaco di Varallo Sesia, capisco al volo, siamo all'ennesima riproposizione della campagna attraverso cui lo Stato divide gli italiani, è una guerra tra poveri, perché non ci vuole far vedere l'amministratore politico pro tempore, chi lo difende, che il vero ladro è lui. E il dottor Tinti può respirare quanto vuole, ma io la penserò sempre, fino all'ultimo momento della mia vita, così, consapevole di essere minoritario e consapevole di essere vergognosamente additato come difensore degli evasori. Non ho problemi a dire che sulle mie due società, partita IVA e posizione personale, pago fino al 68% del totale del lordo fatto. Quindi, Tinti, perché sospirava? Non lo so, perché magari sospirava per gli argomenti di Giannino, che non stanno in una interno. Sola parola pronunciata da Giannino, la delazione fiscale. Dice Giannino che se vede un delinquente, perché ovviamente l'evasore fiscale viola la legge e quindi sì, tecnicamente è un delinquente, può anche essere mandato in prigione oltre certe soglie, lui non lo denuncierebbe perché questa è una delazione. Ma si rende conto? Posso risponderle prima di questa accusa così grave che mi ha rivolto? Non è un problema di economico, non è un problema di organizzazione. È che nel nostro paese l'evasione fiscale viene considerata una cosa fatta bene. No. Le rispondo, però, perché Tinti, no, perché risponde, lei sta dicendo che Giannino, perché da un magistrato non mi aspettavo questa osservazione. Sì, senta, io però vorrei evitare la critica al, come dire, al modo di pensare delle persone. Ognuno la pensi come vuole, anche Giannino, voglio dire. Beh, però lei, scusi, torniamo Tinti, ha detto che se Giannino vede un reato non lo denuncia. Siccome lei, naturalmente, spero molto chiaro, la flagranza di reato, se io vedo qualcuno commettere un delitto contro la persona, contro il patrimonio, lo vedo e, come evidente, so qual è il mio dovere. Cosa diversa è invece la presunzione che si vuole radicare in milioni di italiani, ictu oculi, al fatto che magari lei ha una macchina, io non ce l'ho, e io da questo debba dedurre che lei è un evasore. Di questo stiamo parlando, dottor Tinti, e questo è il sottile veleno che voi insinuate nella testa della gente. Segnalare il fatto che il vicino, capite, di casa che dichiara 30.000 euro. Non è la fragranza di un delitto, dottor Tinti, perché questa è un'altra cosa, questa è la guerra sociale tra poveri, l'invidia, è ciò che da sempre divide questo paese, e gli statalisti di tutti i tipi danno consenso allo Stato sprecone e ladro esattamente con questa veste di distribuzione più giusta. Allora, no, la differenza è sottile. Giannino dice: non vedo uno che piglia pugni il mio vicino, vedo uno che ha 40.000 euro dichiarati, però gira in BMW. Per questo dovrei dire che sta compiendo un reato, per questo dovrei supporre, dunque segnalare che c'è un'ipotesi. No, per questo devo pensare che se corso... lo Stato non funziona è perché è colpa sua, non di chi lo amministra, non di chi perpetua la moltiplicazione dei server nei servizi giudiziari che non sono collegati. No, la colpa è del mio vicino di casa. Allora, dal sindaco Buonanno, ma tra un attimo devo dare le informazioni sul traffico e poi torniamo dal nostro sindaco, che non ho detto colpevolmente è della Lega. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, detto che intanto il 71% dei nostri ascoltatori dice sì, è un metodo che condividiamo. E te pareo. Te l'hai detto tu che sei minoritario, ah, sì, quindi sì. Il 71% su Radio24.it la pensa così. Sindaco Buonanno, eccoci. Allora, innanzitutto io Giannino lo stimo molto, però non sono d'accordo su quello che ha detto, perché faccio un esempio che mi è capitato. Anni fa un consigliere comunale, quindi non un cittadino X, un consigliere comunale porta il figlio all'asilo nido e dichiara un reddito di 3.150 euro, me lo ricordo ancora adesso. Sapendo che questa persona non ha un reddito così basso, dall'autocertificazione gli chiedo spiegazioni. Sai cosa ha fatto? Cosa? Ha moltiplicato per 10 quello che ha scritto e ci ha messo poi 30.000 euro solo perché io gli ho chiesto che perché aveva scritto 3.150. Quindi c'è solo il rischio di vedersi un attimo qualcuna le calcagna. Questo è un esempio, perché quella persona lì avrebbe pagato una retta infinitamente bassa e uno invece che si comporta bene sarebbe stato un coglione perché avrebbe pagato molto di più. Cioè, questo paese deve cambiare secondo me, perché oggi chi si comporta male è tutelato, chi fa il furbo è tutelato, chi si comporta bene è un somaro, perché oggi bisogna piantarla lì di sempre dover giustificare tutto e tutti. E faccio anche un esempio di una proposta che io ho fatto e che sto applicando a Varallo. Sì. Dal primo di agosto ho fatto un regolamento dove chi prende la residenza a Varallo, dopo tutte le verifiche che si fanno, deve dare una cauzione, non una tassa, una cauzione di 200 euro. E che serve? Perché io desidero che chi si comporta bene nella mia città possa non essere un cretino, perché ci sono troppe persone che prendono la residenza, sfruttano tutti i servizi sociali che noi diamo gratuiti o parzialmente gratuiti e poi dopo sei mesi, un anno o due anni se ne vanno in Tunisia, in Marocco o anche nella stessa Italia, cioè, ma anche nella stessa Italia, e non mi pagano l'immondizia, non pagano magari la multa che hanno preso, se ne fregano di tutto. E quindi io dico, se ti comporti bene io te le restituisco dopo tre anni con gli interessi, se ti comporti male almeno mi tengo i soldi e faccio in modo che chi è onesto e paga sempre le tasse non deve pagarle anche che interessi dà il comune, quelli della banca, della banca, quelli che ci sono. Però la cauzione diventa secondo me una cosa importante, perché bisogna piantarla lì di vedere gente che viene nei comuni dove ci sono i servizi sociali efficienti, come io sono contento di avere, sfruttarli e poi ti dicono grazie, arrivederci, tu non li becchi più. Vabbè, sentiamo cosa ne pensa un paio di ascoltatori. Marco da Genova, buongiorno. Buongiorno. Dica, Marco. Io sono al 50% d'accordo con Giannino. Accidenti. Ma penso che in una società moderna tutti dobbiamo vivere in una casa di vetro. E questo succedeva già nel 1970, però, perché io sono stato raggiunto dalla telefonata, neolaureato, che lavoravo come dipendente, sono stato raggiunto dalla telefonata del mio medico di famiglia, da Orta, che mi ha detto, congratulazioni, ho visto che mi hai superato nella presentazione della dichiarazione dei redditi. Ah, si era informato. Finché però guardi, poco nel Marco, la casa di vetro, la casa di vetro, non so se Oscar io la interpreto così, tu dici, la casa di vetro deve essere che lo Stato, giustamente, ha tutti gli strumenti per sapere tutto di me e fare gli accertamenti. Questa è la casa di vetro, ma la casa di vetro in cui il condominio, tutto il condominio deve sapere quanto paga quella al piano terra, quella al primo piano, quella al secondo piano, quella al terzo piano, questa non è la casa di vetro? No, certo che non è la casa di vetro. Cos'è? È la Stasi? Questo è il sogno dei populisti, di tutti i colori, di qualunque cultura statalista, di destra o di sinistra, che prolifera nel nostro paese, che scambia l'interesse pubblico per l'interesse pro tempore di chi amministra il condominio. Così, lo ripeto tre volte, amministratore di tutti i colori, quando sono pro tempore in campo, alla testa dell'amministrazione, come il... sindaco di Varallo, che legittimamente sostiene la sua tesi, sono titolati a credere e a ripetere giustamente che grazie ai cittadini che vigilano e che premono gli uni sugli altri, loro potranno meglio mettere insieme ciò che serve però, loro per chiudere il bilancio. Sindaco Buonanno ha fatto bene o ha fatto male quando ha scoperto quell'assessore che denunciava 3.000 euro, gli ha detto: scusa, mi dici perché denunci 3.000 euro? E quindi questo assessore ha detto: no, no, erano 35.000. Cioè, ha fatto bene perché ha recuperato dei soldi o comunque ha corretto un comportamento illegale di una persona, o ha fatto male. Ma ci mancherebbe altro, il problema non è questo. Il problema è credere che da il moto, quando io sono stato in un giornale, ero direttore di un quotidiano economico finanziario allegato a un quotidiano giornalista, uscirono le sì, liste, sì. Il direttore del quotidiano giornalista a cui era legato prese l'immediata decisione di riempire pagine e pagine. Possiamo ogni giorno. Possiamo dirgli i nomi, no, ci tengo a non dirlo perché naturalmente mi ha licenziato e ho vinto la causa, quindi figuriamoci su questo. È un disonore per lui. Lo posso dire io? No. Allora, comunque, io non ero d'accordo su questa decisione. Naturalmente, lui l'ha imposta al suo giornale. Perché? Perché ovviamente lui dice: noi dobbiamo vendere, dobbiamo eccitarla, certo, la gente. Lì c'era eccitarla. Anche un po' lo scopo, allora, giornalistico. Dal piccolo osservatorio giornalistico so qual è il criterio. Eccitare, soffiare sullo scandalo, sul fatto che tantissimi milioni di italiani che hanno solo, come giustamente ci ha ricordato Tinti, il reddito dipendente, quindi sostituto di un post, sono portati a credere che gli altri sottoposti ad aliquote personali tra le più alte in tutti, sì, i paesi avanzati sono tutti evasori. Ci sentiamo dire dagli spot dell'Agenzia delle Entrate che l'evasore è un ladro a me, perché se lui pagasse le tasse le mie sarebbero più basse, quando è falso. Se tutti pagano le tasse, come faccio io? Lo Stato si piglia tutto e non mi restituisce niente, perché lo Stato è incapace, questo fino è un a questo momento, di tornare indietro sulla sua tendenza inerziale da ladro di aumentare la spesa pubblica. E tutte le persone in buona fede, in ottima fede, come dottor Tinti, come il sindaco di Varallo, come la stragrande maggioranza, contribuiscono a questa macchina. Allora, no, Oscar, prima di andare dal dottor Tinti, io vedo un ascoltatore, ci ha chiamato come ascoltatore, Giuseppe, ma mi leggo essere, me lo scrivo dalla redazione, il presidente dell'Associazione Finanzieri Cittadini Solidarietà. Leggo giusto, Giuseppe Fortuna, sì, da Roma. Buongiorno. Giuseppe? Sì, prego, dica. Sì, sì, innanzitutto saluto il dottor Tinti, col quale ho fatto parte di una commissione per la riforma del plan tributario. Sono presidente del direttivo di questa associazione. È un'associazione che lavora da 12 anni, quindi non siamo nati ieri, abbiamo un sito con oltre 8 milioni di contatti, ci interessiamo di queste tematiche. Allora, volevo, andando subito al centro della questione, volevo rappresentare che singolarmente, ma non tanto, parlandosi della questione centrale, insomma quella della fiscalità, tutte le persone che sono intervenute, quindi da Tinti, da Giannino, dai sindaci, hanno tutte assolutamente ragione. Si tratta di trovare tra queste opposti punti di vista, apparentemente opposti, perché poi su alcuni punti si è d'accordo, di trovare la linea intermedia che salvaguardi tutti gli interessi e anche le esigenze contrapposte. Io ero dirigente al Garante della Privacy quando è successa la questione, sì, di Romano e di Visco, quindi so quello che avvenne, e avvenne un fenomeno vergognoso di voyeurismo fiscale. Quindi ha ragione perfettamente Giannino. Ecco, i giornali che pubblicarono è innegabile, cioè tutti che controllavano. E questa è una cosa che a me personalmente, ora io parlo naturalmente da esterno, da cittadino, è una cosa secondo me che non è accettabile. Ha ragione perfettamente Tinti, queste sono funzioni assolutamente che deve svolgere lo Stato. E quindi è necessario assolutamente mettere mano alla riforma. Però mi scusi, se vengono pubblicate, è un'amministrazione totalmente d'accordo, da riformare. Ma se, che lo faccia lo Stato, che lo facciano i sindaci, se viene reso pubblico, poi c'è il voyeurismo. C'è Aspetti, io non sono favorevole per alla pubblicazione. Non sono favorevole per questi motivi. Sono assolutamente favorevole ad un a totale sensibilità e totale vicinanza delle amministrazioni centrali, e questo riguarda non soltanto la fiscalità, riguarda anche la sicurezza. Uno dei grandi problemi di questo paese è che le amministrazioni che svolgono funzioni centrali fondamentali, come l'amministrazione di polizia e le amministrazioni fiscali, svolgono funzioni totalmente centralizzate, con logiche di avanzamenti, di carriere, di obiettivi che sono fissati dal centro. Un centro che si allontana dalle esigenze del territorio e che risponde a logiche spesso non confessabili, allora, come sta uscendo fuori con la B4 e quant'altro. Accidenti. Quindi ci vuole una fortissima riforma delle amministrazioni centrali, far svolgere alle amministrazioni centrali le attività che non sono, che sono proprie per costituzione delle amministrazioni centrali. In materia fiscale c'è una riserva di legge costituzionale, quindi c'è, ci sono, c'è l'articolo 23, ci sono altre riserve. Calpestato ogni giorno dallo Stato. Come però bisogna avvicinare gli obiettivi delle amministrazioni centrali sul territorio al territorio stesso e far sì che le carriere vengano fatte sulla base della qualità. Si parla tanto di meritocrazia, la meritocrazia è il risultato a vantaggio dei cittadini che stanno sul territorio. Sì, ma la meritocrazia in Italia, dottor Fortuna, ecco, cambiamo argomento, io dico così. Grazie intanto per il suo intervento. Dottor Tinti, lei da magistrato quante persone ha scoperto grazie a delazioni o meglio a, non so, a segnalazioni, a, cioè uno strumento... Ovviamente nessuno, perché la cultura dominante è quella della delazione, ognuno pensa per sé, lo Stato mi ruba e quindi io rubo allo Stato e agli altri cittadini. Come diceva il nostro Presidente del Consiglio, oltre il 35% di aliquota l'evasione fiscale è legittima difesa. Questa è la cultura del nostro paese. Però, scusatemi, noi dobbiamo parlare non della filosofia di Tinti, di Giannino o del Presidente del Consiglio. Noi dobbiamo parlare di dati di fatto. Io le chiedo, se sul gettito fiscale totale di 146 miliardi, 140 sono pagati dai dipendenti e dai pensionati, qualcosa non va. C'è qualche dubbio che tutti gli altri evadono? Secondo me è inutile venire a dire io ho una società, pago il 68%, sono contento, fai il tuo dovere, ma non c'è dubbio che in Italia abbiamo un problema di evasione fiscale circoscritto alle persone che non sono dipendenti e pensionati. Su questi, con questi dati, un'ulteriore prova, vuole un'ulteriore in 10 prova. Secondi però, dottore. Ministero delle Finanze, redditi medi denunciati da commercianti, 17.703 euro al mese. Alberghi e ristoranti, 12.643 euro al mese. Allora è ridicolo discutere sul fatto che il popolo dell'IVA non paga le imposte. No, si fermi qui però. No, si fermi qui. Dottor Tinti, siccome non abbiamo il tempo di approfondire i meccanismi dell'accertamento sintetico induttivo in base al quale si fa quelle medie, noi da Radio 24 lo facciamo per mestiere tutti i giorni, spiegare come funzionano stolidamente, unilateralmente stabiliti dallo Stato gli studi di settore. Sì. Quelle cifre si devono a quello, dottor Tinti, e vengono bassamente utilizzate, mentendo, presentandole come dati di fatto, da chi legittimamente rappresenta il suo punto di vista giustizialista statalista, mentendo sapendolo. Ci dobbiamo fermare qui, grazie a tutti, ma Oscar Giannino rimane tra poco alle 9. Di che parli? Io parlo del governo che si ribalta ogni giorno, anche stamattina, quindi bene, manovra alle 15 in attesa, italiani tremate. A domani per me.